517. Tinche Inzimino. La tinca disse al Luccio: «Val più la mia testa che il tuo buccio». Buccio per busto, licenza poetica per far la rima. Poi c'è il proverbio: «Tinca di maggio e Luccio di settembre». Fate un battutino con tutti gli odori, e cioè cipolla, aglio, prezzemolo, sedano e carota. Mettetela al fuoco con olio e quando avrà preso colore versate le teste delle tinche a pezzettini e conditele con sale e pepe. Fatele cuocer bene, bagnandole con sugo di pomodoro o conserva sciolta nell'acqua. Poi passate il sugo e mettetelo da parte. Nettate le tinche, tagliate loro le pinne e la coda e così intere ponetele al fuoco con olio quando comincia a soffriggere. Conditele con sale e pepe e tiratele a cottura col detto sugo versato a poco per volta. Potete mangiarle così che sono eccellenti, ma per dare al Zimino il suo vero carattere ci vuole un contorno d'erbaggi, bietola o spinaci, a cui dopo lessati farete prender sapore nell'intinto di questo umido. I piselli pure vi stanno bene. Anche il baccalà Inzimino va cucinato così.